poverità. In vano tu speri, in vano tu speri, far pace, far pace al tuo cor. In vano tu speri, far pace, far pace. Thank you.